sono 10 anni che raccogliamo prove sulle violenze, sulle torture che subiscono migranti e richiedenti asilo rifugiati nei centri di detenzione della Libia. Proprio mentre il Parlamento si appresta a rinnovare la cooperazione con Tripoli in materia di controllo delle frontiere e immigrazione, abbiamo pubblicato nuove prove riferite al primo semestre di quest'anno su quello che fa la Guardia Costiera o sedicente tale della Libia, che solo nei primi 6 mesi dell'anno ha intercettato in mare e riportato in quei luoghi di terrore da cui erano fuggite oltre 7.000 persone. E una volta riportate nei centri di detenzione subiscono torture e violenze che avete documentato anche in passato? Sì, l'elemento nuovo, se possibile persino peggiore rispetto al passato, non solo legato all'aumento delle persone intercettate in mare, ma al fatto che centri di detenzione informali che prima erano gestiti da milizie ora sono stati integrati nel sistema della Direzione per il Contrasto all'Immigrazione Illegale, che è un dipartimento del governo libico che, come dire, ha sanato completamente ogni genere di violenza che è accaduta all'interno, ha promosso addirittura chi controllava quei luoghi informali che ora diventano luoghi ufficiali di detenzione. Quindi è come dire aver condonato e sistematizzato la tortura, la violenza sessuale, lo sfruttamento, l'estorsione e il lavoro forzato. È per questo che parlate di complicità dell'Europa? Sì, soprattutto la cosiddetta Guardia Costiera Libica, che è una creatura maledetta e malefica nata dall'Italia, sostenuta dall'Italia, ma più in generale nella cooperazione con le autorità libiche per quanto riguarda l'immigrazione ha prodotto delle conseguenze che non erano già giustificabili un decennio fa, ma lo sono ancora di meno adesso, perché in tutte le capitali europee è noto, compresa Roma, quello che accade in quei centri. Quindi continuare questa cooperazione con la Libia, affidando spesso all'Italia il lavoro più sporco, ma una responsabilità è evidente che dell'intera Unione Europea, significa essere complici di crimini di diritto internazionale. A proposito di diritto internazionale, in passato l'Italia fu condannata per i respingimenti, come dire, il ruolo della Libia è quello di fare respingimenti per procura, quindi? Sì, è una tattica, ormai tattica cinica e crudele, che è quella di, dal lato italiano, di far effettuare respingimenti fornendo alla cosiddetta Guardia Costiera Libica gli strumenti per farlo, cioè motoscafi d'altura, grande velocità, che vanno in mare, riprendono migliaia di migranti ogni anno, a volte fanno delle manovre che provocano il capovolgimento delle imbarcazioni, e la cosa paradossale è che tutto questo viene chiamato missioni di soccorso. Quindi noi stiamo dando retta a questo linguaggio completamente ingannevole, per cui forniamo alla Libia la capacità di soccorrere, tra virgolette, le persone che da quei soccorsi e da quel paese cercano disperatamente di fuggire. Quindi insomma il memorandum non dovrebbe essere rinnovato. Noi sosteniamo questo da tempo, l'abbiamo sostenuto anche ieri pomeriggio a Montecitorio in una affollata manifestazione di società civile, c'erano anche diversi parlamentari. Se posso permettermi una considerazione, i diritti non sono, come dire, acini di un grappolo d'uva, no? Per cui uno lo prendi, uno lo lasci lì, uno lo butti. Quindi da questo punto di vista non capisco perché chi è a favore giustamente della DDL Zan poi sia a favore anche del proseguimento della cooperazione con la Libia.